proviamo, su, nuova gira, nuova cosa. Mezzola. Aio Fifoni, accendete le radio. Attenzione, canale 10, se ascoltate l'isola sarda, cambio. Cavolo, cavolo, giro! Tutti con le antenne staccate. Attenzione Lucca. Attento Flippero. Chiava, Ruggero, tutto qui, tutto Ruggero, capo. E chi sei, che non ti ho capito, chi sei? Chi sei, Lucrezia? Andiamo a poco? E se tu fa la voce da coso, capito? Eia, ho capito quello che ti ho mandato lì. E io ho chiamato, non ho risposto nessuno. Non è un temporale con fulmine e cose, sì che c'è solo fulmini, sono d'accordo anch'io a staccarlo, ma sono solo droni e pioggia e basta, buh. Probabilmente fermano le cariche retrostatiche, Ah, la crappe di gomma. Sì. Spegni alto, perché c'ho troppo basso. Ho alzato il volume adesso, che era troppo basso e non si sentiva molto bene. Chi è entrato? Manuel. Briciola. Eh beh, insomma. È all'ombra dell'ultimo sole. E beh già, è a riposo. A riposo sì, finalmente. Finalmente si arrillo, dai. Solo che oggi che si è a riposo perdeva. Ehi, non avevo tanto voglia di uscire. Tu via. Aspetta. Sono rientrato ieri, stamattina, da ieri, dalle 5, sono rientrato stamattina alle 8. Oh yeah. Gli hai fatto anche più sacrifici con quel lavoro lì. È un casino, poi ci vado a casa nelle campagne, è un casino veramente. Cappa cappa. Cazzo ieri, no ieri, quando è che sono andato? L'altro giorno ero dall'esame di scariche elettrostatiche le hai? Fa così, ma è normale. C'ho anche io. Tipo vibratore, quando parla la voce è vibrante. E quindi Emanuele, la guardia armata quando la farai? Allora, la guardia armata dovrebbe iniziare dopo agosto. E poi tu l'hai fatto là, l'hai fatto il continente, quindi qua non mi sa che non ti vale. No, vale sempre, cazzo, io sono sempre in Italia, sì. Ah. E vabbè, se conosci qualcuno già te lo fanno in fretta. No, dalla prefettura di Milano, dove ce l'ho io, ci vuole un attimo che te lo rinnovano. Cappa, cappa. Vabbè, per il resto sei tutto a posto, no? Sì, per il resto sì. Non è duro, vai, ma già a posto. Ma si sa, questi lavori qua si sa, lo so. Però ho fatto entrare due amici lì e si sono già lamentati. Mi sa che dura che poco. Non sono tutti, no, che sono propensi a fare sacrifici. Molta gente vuole i soldi senza lavorare. Quello, vabbè, è un lavoro, è uno stress perché non fai nulla, però è stressante come lavoro, perché se non c'è niente da fare è ancora peggio. Ti devi portare un televisore, ti guarda la TV e ti devi arrangiare, cosa devi fare? Il lavoro è quello lì. O ti fa una passeggiata, ti fa un giro, il lavoro è quello, da quando entri e da quando esci. E poi ti sballa tutti gli orari, ti sballa, capito? Perché poi quando ritorni ti senti un vuoto, io lo so perché le notti le ho fatte. No, per me no, per me forse perché io l'ho sempre fatto, poi non lo so, io quando smonto la notte riposo un giorno, di domani, anzi, sono più tranquillo perché riposato. No, a me mi lasciava un vuoto proprio, una stanchezza mentale proprio. Io quando facevo servizio ambulanza le notti le facevo, capito? Quindi so cosa vuol dire, uscivo anche un po' di volte di notte, specialmente il sabato, quando lo facevo il sabato, servizio uscivamo un po' di volte. Dove hai ucciso? E io ho fatto tanti anni alla Croce Blu, poi sono stato un paio di mesi all'Avis e poi sono entrato al CISO e ci sono stato 17 anni. Lì c'era di gente comunque, a parte che allora non ti pagavano neanche, adesso mi sembra che ti danno sulle 400-500 euro. Adesso il soccorso sordo c'è la busta paga, li pagano proprio, gli danno lo stipendio, però basi di 10 euro, 12 euro, gli danno lo stipendio proprio, gli danno la busta paga. Cazzo, se c'è un amico mio dice che lo devono mandare via, che non c'hanno, ma non mi ha detto male. E magari alcuni li pagano così, capito, con la busta paga, alcuni li pagano, gli danno qualche cosa per... non è a tutti magari che la danno, però io avevo un amico che prendeva la busta paga direttamente, arrivava a prendere, mi pare, 1.200-1.300 euro. Sì, quella cifra lì, perché mio nipote faceva autista lui, e prendeva quella cifra lì, mio nipote c'era, mi sembra, 10 anni c'era. Poi se ne è andato che il castello non sbatte niente di coglioni, troppe ore. No, questo amico mio adesso è entrato alla Croce Rossa ed è statale, capito? Ha fatto la domanda, riuscite a entrare alla Croce Rossa ed è statale, è pagato come uno statale. Se così va bene, se così sì. Ma prima era soccorso sardo, è stata la Croce Blu anche con me, prima è stata la Croce Blu, poi è stata soccorso sardo e poi è nato lì. Ma mi sembra che, ma che è col coso? Parlava al malacchino questo qua. Gianfranco. Sì, già lo conosco. Cazzo, ci conosciamo da ragazzi. Hai capito chi è? Che si è fatto il coso a conto suo. Sì, prima era via Grazia d'Alenda, ci avevano tre attività. La madre e padre pure conosco, che abitano dove c'è vicino al Porto Santa Maria. Non ho capito, no. La madre e padre li conosco lo stesso, abitano vicino al Porto Santa Maria. No, la madre e padre sono morti tutti e due, non abitano più. Abitavano in via Grazia d'Alenda, c'erano il forno della Fainé, il bar e la pasticceria. Allora non è quello che sto dicendo io, perché quello che sto dicendo io si è fatto il coso a conto suo, l'ambulanza. No, lui è entrato alla Croce Rossa. Avanti, Luca. Un attimo. Capo. Vabbè, adesso hanno capito tutti che c'è il guadagno facendo questo tipo di servizio e quindi, capito, fanno tutti così. Io hanno capito che si guadagna e tutti lo stanno facendo a scopo di lucro, non ne fanno più come volontari. Io l'ho fatto come volontario. Sì, prima erano tutti volontariati, ormai, se non vi sedevano non andava nessuno. È un bel casino. È un casino, sì. Mi sento un attimo, già. Eia, cosa ti fa il panino? No, vado panino. Oh, non c'ho neanche voluto mangiare. Ho mangiato a mezzogiorno, però no, per il momento non c'ho voluto mangiare ancora. Strano, perché di solito a questa mano mi viene la fame. E poi a me mi sballava tutto, non avevo voglia né di mangiare, niente, proprio ero stanco tutto il giorno. Io quando mi adesso a questa la stavo già lavorando, entravo alle 5 fino alle 8 di domani, mi porto due panini, una bottiglia d'acqua, adesso questa estate mamma mia ce n'è da morire, vediamo un po' cosa, come porta la posta a frigo, gli ghiacciuli, una cassa di birra fresca. Un po' di salata. D'estate è ancora peggio che c'è caldo. D'estate è ancora peggio, sì, perché siamo sulla strada noi. Cazzo viene dai sciulissi. Ma gabina non ne avete? Sì, magari, gabina, cazzo gabina. Pura semo. A passeggio, così. Come le prostitute. Per carità. Aspetta che già me lo porto un ombrellone io. Ti dico che anche ma sono. Ma con l'ombrellone e lo sdraio, burro. backup. Cosa è questo che è? Tutto a riempire, ma saranno. Ma infatti. Questi lavori qua sono servizi nel cavolo, ci sono servizi belli e servizi di merda. Ti metti la macchina vicino, berretta un macco, ti metti la macchina vicino, ti bosi in macchina e ti gocchi in macchina, come faceva un amico mio. Sì, ma se si ha un trasporto in macchina, cosa non dà che vuoi in macchina? Troia. Cazzo, non mi cai in macchina, di sicuro. Ma almeno se c'è un punto d'ombra ti puoi fare il riposino. Non puoi cazzo il riposino, devi controllare i semafori. Ah, i semafori sì. Sì, devi controllare anche quelli, non è che sono i semafori, devi controllare anche i semafori, ci sono i lettori. E cosa controlli, se funzionano o no? No, lì, allora, ci sono, visto là che sulla Trento Maisanto ci sono lavori in corso, non so se ci sei passato. Sì, sì, anche se sono i Bidriazzi. Lì siamo andati, lì ero ieri lì. Ma di notte? E allora? Mamma mia, ti camminare come ti macchi, da buio. C'è qualcuno che non si accorge, poi è un casino. È una strada, io ho visto un uomo lì, l'hanno fatto a pezzi, poveraccio, l'hanno investito con la moto, questo l'hanno fatto a pezzi. Un pezzo alla base, un pezzo alla sera, una quilla di ribì. Devo andare piano, anche se ci sono i semafori, basta al blu, i semafori lui, ma che se la bella è così, che devo cambiare la vita io. Ehi, ma c'è gente che non rispetta i semafori, capito? Non li rispetta proprio per nulla. Sì, già lo so che non li rispetta, perché non vedono la macchina, lì vanno, allora passano lo stesso. Spera. Ma ci sentiamo dopo già, la sento 15 minuti, lascia acceso comunque. Ehi, Emanuele, dai, io sono qua. Luca, ci sei? Luca? Mi senti, Luca? Un attimo, che sono al computer, sto configurando una porta. Natalino, ci sei? Beh, non entra nessuno, sto spegnendo tutto io. Chi è là? Avanti. Ciao Gianni. Poi fra, tutto bene. Sì. Non perdere. Domanda supplementare ne hai? Troia. Vabbè, non lo di a me. Non lo di a me. Ti dovevo chiamare e poi cazzo, sono andato a telefonarti e poi il numero non... è sbagliato, poi c'è qualcosa di sbagliato. Aspetta che ti faccio uno squillo. Sì. Luca. Ma cosa sei tu? Ma Marco, Bravo, tu che sei? Manuele può essere? Sì, apra, Manuele. Ehi, abbiamo migliorato il segnale. E io chi sono? Che vuole fare? Chi sono io? Hai già. Beh, buonasera a tutti, dai. Stavo aspettando che entrasse qualcuno, perché tu te ne sei andato, Luca se n'è andato. Ma certo, QRM stasera, strano, scariche poco fa, però adesso di meno. Poco fa sentivo delle scariche strane. Temporale, anche qui. Mi stavi dicendo, fra, è migliorato? Caspita, prima mi arrivavi bassissimo, a malapena ti sentivo, adesso ti ascolto più che bene, non sei segnali fortissimi, però adesso ho migliorato sia di radio che di segnale. Sì, un'antenna sul poggio l'ho messo, dai, fuori, un'antenna di macchina. Buono, c'è anche picchi positivi. Bene, bene, sì, le scariche le sentivo anch'io, il temporale che c'è in zona è già... Faceva sentire le voci con la vibrazione, vibranti. La radio come la senti, fra? Diciamo diversa da quella che usa per esempio Claudio, dai. Ma sicuramente dipende dalla sua voce, ognuno ha la sua timbrica. Beh certo, ma è forte o com'è? Bella, perfetta. Va bene, è interessante che sia una voce naturale. No, molto naturale, non è di quelle che come si dice. Come ce l'ha il processore, inserito o disinserito? Devo controllare. Sicuramente non è inserito, che in genere quando lo inserisci è un po' più prepotente, ma così, a me piace così, così è da salotto. Adesso è inserito, guarda. Prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non lo so, dipende tutto voi dal tono di voce, dai. C'è Claudio che c'ha dei bassi tremendi. Oppure mando laterale c'è. Le corde vocali mi devo fare operare, dai. Lascia perdere, dai. Così siamo un capisani che è meglio. Io sarò un macuno. Ma è interessante che mi sentite. Va bene così. E invece la tua è bella amprosa. La mia cambia dal verticale. No, sei proprio una voce naturale, bella forte. Invece Tonino ce l'ha comprato, ce l'ha preso lo stesso lo Schuller, però lo tiene troppo alto, a volte non si capisce cosa dice. E mia è tutta manetta mia. Adesso sia Maracchino che guadagno del mic è a manetta adesso, Il suo pompa un po' di più, Il tuo va benissimo e niente da dire, però lui quando lo mette alto non se ne comprende nulla perché è troppo forte. Mari è stata anche la radio, capito? O il microfono è stato toccato, ma è aumentato all'esasperazione. Questo io non ho mai toccato niente. Hai lecce troppo alta. Tutto può essere. Il microfono ci avrà delle regolazioni all'interno del circuito. Si potrà regolare, no, la modulazione. Non lo so, penso di sì che ci sia qualche trimmer. Comunque lui lo usa col Galaxy ed è fortissimo, però lui se lo abbassa è molto più chiaro, perché lui parla anche in fretta, capito? Sì, no, io perlomeno mi hanno sempre fatto buoni responsi radio con questo microfono. Non sarà fortissimo, però l'importante è che sia chiaro. Kappa. Sì, è così. Ma comunque lo Schuller va bene sempre. Io, mia figlia che canta e usa quelli Schuller per cantare. E sono, diciamo, dei microfoni veramente belli. Belli e hanno una bella timbrica. Sì. Si conferma, come dice qualcuno. Come si chiama? E io come arrivo da te? Ho migliorato un po' dalle parti tue. Manuele. Ma tu sei sempre forte, fra, cazzo, la modulazione è bella, 7x5, tu mi arrivavi anche quando c'avevo l'antenna dentro casa. Il segnale come ce l'ho lì? Stavo aumentando anche il segnale, perché sei aumentato tu, sicuramente sono aumentato anch'io nei tuoi confronti. Vabbè, 9,20, dai, quasi 9,25, sì. Ottimo, perché conta che a me quella zona è coperta, Ma dove sei tu, sacro cuore? Però l'antenna ce l'ho, diciamo, rivolta verso il campanile, verso la chiesa, però non supera il tetto. Quindi verso Fatamona, quella zona lì sono coperto, dove l'antenna non vede. Ma mi arrivi bene, cazzo, alluvia. Deve essere rimbalza sul sul palazzo che c'ho di fronte e va di riflesso, deve essere. Avanti già. Vabbè, comunque fra adesso, fra poco arriva il bel tempo, deciditi a metterla su questa antenna. Ho paura che poi la metto su e si dispersa, magari è un casino, oppure se ne scende un elemento dentro l'altro. Lì io ci metto un'antenna come si deve, seria. Mettici un'antenna seria, ma metticela, Baro. Perché tu vai bene come radio, è un peccato che lontananza poi non ce la fai arrivare in certi posti, quindi è sempre meglio avere un'antenna sul tetto. Alghero, no, li sento a malapena, tipo segnale zero, meno 0,5. Purtroppo così, sicuramente col tetto, magari 4 o 5, dovrei ascoltarli, almeno. Ma poi quella zona tua è liberami, va bene perché libera per Alghero, per Porto Torres, è tutto in pianura. C'è quel palazzone giallo, quello di Maglione, quello sicuramente mi tappa perché copre tutto lui, quello è un bel alto. E tu ci metti la prolunga. Ho un amico lì, dico, Vasco, allora mi fai mettere l'antenna da te. Allora Jimmy, c'è anche quel palazzone di Viale Porto Torres che è un bel alto, quello lì, se metti l'antenna lì guai. Quello bianco, anche quello già è alto, sì, lì, dove sono i pianoforti, dai, avanti Manuel. Mi sento un attimo, riparate voi, dai, vi ascolto. Capo, avanti già. Eia, quello invece è quel palazzo, quello di fronte, dove c'erano le officine prima, che l'hanno tutto restaurato, non hanno mai venduto gli appartamenti, l'hanno tutto restaurato ma mai venduti, tutti chiusi sono. No, ma non ti sto seguendo però. E in Porta Sant'Antonio, io ho visto alla fine, dopo la chiesa, che c'è quel palazzo che hanno restaurato, eccetera. Sì, ho capito, sì. Beh, l'hanno messo più che altro, l'hanno messo in sicurezza, e poi hanno chiuso le porte con, mi sembra, con del multistrato, che hanno rifatto tutto, stavano vendendo gli appartamenti, ma a quanto pare dice che erano troppo cari, nessuno l'ha bigliato. No, allora non ci ho fatto caso, sono rimasto che erano, sì, è stato rifatto, però all'interno credo che fosse ancora, non dico è stato grezzo, ma quasi, dai, esteticamente fuori comunque è stato messo in sicurezza, invece mi stai dicendo che è stato finito. Io so che stavano vendendo gli appartamenti lì, però a quanto pare volevano troppo e non hanno trovato acquirenti, anche perché è sempre un palazzo vecchio, per quanto sia restaurato è sempre un palazzo vecchio. Ma sarà fatto muri in tuffo, mi? Beh, poi a sacro cuore, lo sai le case popolari come c'era il tetto, ci avevano la paglia, una volta è salito questo qua, doveva salire dalla botola e c'era una trave per passare, perché se mettevi il piede sprofondava, e invece di passare sulla trave ho messo il piede e ci è sceso dentro casa nostra, dentro casa di mamma. Poi alla fine l'hanno fatto bene, tutto quanto dalle case popolari, l'avevano tutto ristrutturato, tolta la paglia e messi travoli eccetera eccetera, ma intanto abbiamo trovato questo tipo con le gambe penzoloni, mio padre è andato correndo a prendere la scala, gliel'ha messa sotto per non farlo cadere giù. Mamma mia, bella esperienza. Beh, no, da noi sono in tavelle, ma io non ci passerei sopra neanche sulle tavelle. Ciao Nannini. Fiorona, cambio. Ciao Nannini. Questa si chiama invasione di campo. Cuo cuo, maniga. Ciao Nannini. Ciao Nannini. Ciao, Luca in Cambogia. Come muove la mia cataria, c'è su invasione di campo l'ho fatto. E poi che è andato anche Luca? Buonasera, buonasera, che bella. Ciao Franco, Franco California, senti qua che bella. Gianni da più lungo che ciao ragazzi, ma due Luca sono entrati, non sbaglio. Ehi, c'era anche Luca Flipper, ma non c'è adesso. E chi è che c'era il bip da combattimento? No, chi sei tu? Chi è che ha detto io? Ha detto Gianni doppio Roma, se ascolti questa modulazione, cambio. Chi è questo? Chi è? Franco California. Ah, ecco, l'ho confuso con Luca allora. Attenzione Franco California, se ascolti il qui presente Gianni doppio Roma. Non lo so se mi ascoltate perché io sono in un corso e sono a meccanica, cambio. ti ascoltiamo, anche forte, anche forte. Qui arriviamo alla pena, sì, sul 9 più 30, dai. E allora già va bene, dai, se sono 9 e 30 già va bene. E non ne so che io. Da 9.20 a 9.25 qua sì. Fra. Ma vai ti cos'è trovati sotto, però. Ah, sai, sto scendo liscio, Gianni, cambio. Mi stai anche sbatterando qua. Vai, Pinocchio, avanti già avevo Pinocchio. Qua sto pilotando a 200 adesso, dai. Bene, mi ascoltate, sì. Sì, sì, la radio è buona, fra. Tu come mi ascolti? 9.30, sì, qua già, e la radio 5 è buona. Ascolto anche un altro amico, però non mi ricordo chi sia. Ehi, Franco sono, Franco. Tu ricordati il tuo nome? California era questa, Franco, dai. Qui Franco, Freccia Rossa, Binario, uno dei due, dai, vedi tu. Ciao Franco Binario, buonasera. Dopo di tanto, ogni tanto ti fai risentire, dai. Beh, ogni tanto vieni a scaldare un po' di transistor. Fai bene, altrimenti si rovina. Mi ha detto zona canica, sì. Arrivi bene, perché io anche lì arrivo male io a canica, è una zona coperta per me. Vabbè, ma io ce l'ho praticato l'attaccato, capito. Sto uscendo con quasi 200 sotto, capito. E altrettanto sono io. Quindi siamo lì, dai. Già, sono passato a vedere una macchina e è entrata in funzione l'allarme. Vi sei entrato di frequenza dentro? Sicuramente sì. Avanti Gianni. Gianni. E Luca c'è? Posizione. Aspetta che forse abbiamo parlato assieme, dimmi. Guarda in questa posizione quando sono arrivato. Ma sei in movimento, vai da 5 a 9.10, 9.20. Sì. Oh, sempre ottimo. No, mi interessa che la radio sia buona, poi il segnale non è che mi interessi. Più di tanto. Sì, è leggermente un po', si sente che è un po' compressa, però è molto chiara, è molto forte, è un piccolo effetto eco, dai. Sì, vabbè, lo posso aumentare, però lascio così che va bene. No, no, va bene, ma non ha nessun problema. Qualcuno sta parlando sotto, che io, ripeto, li sento tutti bassi. Luca. Gara di positivo, dai, vi saluto e ci la riascoltare in prossima. Ciao Luca, ciao Franco e ciao anche a Gianni e gli altri amici che ci sono, non so chi altro ci sia, salutati, tutti salutati al 100% da parte mia, dai, ci la riascoltare in prossima. Ciao ciao. Capa, ciao Fra, dimmi che invece che antenna stai usando? California. Capa, sto usando un'antenna piccolissima, tipo una pasta nera, dai, caricata. No, va bene, c'è bene, dai. Dai, ci sentiamo alle prossimine. Chi è che vuole entrare? Voi non c'è arrivato più nessuno, mi sa. Ciao Franco, ciao, ci sentiamo. Dai, io ero al telefono, non ho fatto tempo a avvisare. Ciao Fra, andando via. E dai, riprendo la casa, che sono complimento. Poi c'è posto di blocco, anche qua, quindi... È un casino, dai, riprendo magari più tardi la casa. Ciao a tutti, buonasera, ciao Gianni, ciao ciao. Ciao ciao Fra, io guarda mi metto il microfono sul ginocchio e lo schiaccio e manco mi vedono parlando al microfono a me. È amplificato? No, negativo, ma l'apparecchio mio c'ha tipo un processore, no? Che ti amplifica la voce anche col microfono normale. Buono, buono, io ho preso un amplificato, però è una bella porcheria, quelli in macchina, un M95 mi sembra. Ma quello della Midland lo stai usando? Quello lì pompa forte, mi dice, non va bene. In macchina no, lo sto usando, cioè l'ho usato qua a casa, ce l'ho a casa quello lì. Ehi, a quello che abbiamo presenziato, quello lì, a me mi hanno superato dei buoni controlli, esce bene. Ma c'è che l'attacco, dai. Sta pagando. Eccomi, mi senti? Sì, ti sento, esce anche bene. Molta differenza tra l'altro. A volte, adesso gli ho messo un po' di, come si chiama? La ferrita gli ho messo, perché prima mi innescava. Ha un po' di toni bassi, ha un po' di toni bassi in più dell'altro, l'altro rimane più acuto, capito? Vabbè, siamo... adesso ce l'ho quasi a zero, come un po' di eco, si sente? Sì, sì, si sente. Ed è a zero, poi i trimmer dentro li avevo un po' modificati, non so come, però adesso lo lascio così, dai. Sì, va bene, va bene. Sente bene. C'ha un tantino di eco, ma non è fastidioso. Ti dà un po' di amplificazione in più. Mi serve anche se lo porto da zero. Ha sempre un po' di effetto eco. È tutto regolato sicuramente dai trimmer interni. Dai, dai. Tu quelli li hai toccati? No, non ho toccato nulla, l'ho lasciato com'era. L'ho lasciato un verginello. Qui ho dovuto toccare perché ne scava quando usavo l'Alfa Lima. Invece vedi, adesso è attaccato. In sesta marcia. Vedo che non stai innescando, no, ma per il prezzo che li abbiamo pagati vanno benissimo. Io non è che ci credevo, a quel prezzo lì quanto era? 9,90 più vabbè le spese che ce l'abbiamo divise in mezzo a pari. Sì, ma infatti no, diciamo che non abbiamo pagato nulla praticamente, è come se l'avessimo pagato le spese di spedizione di qualche altra roba. Se va a comprarti, forse neanche il cavo prendi lo spinotto con quei soldi. Infatti. Io ne ho preso uno spinalacro, siccome non ce l'aveva la 5 punte, mi serviva 5 punte, ne ho preso uno a 5 fili, non a 5 punte. Ne ho preso uno da Fusaro, perché non ne avevano di quelli corti, invece è un po' più lungo questo, tanto è un po' più lungo, sarà 2 metri lungo il filo. No, vedi, quello andava bene in macchina, perché io in macchina ho dovuto farmi la prolunga. Ho preso la macchina una femmina, ho usato un cavo telefonico, mi sa. Sembra che vada bene. Io va bene, sì. Ma questo qua è molto comodo, perché io senza tirare, senza nulla, mi corico nel letto, mi posso girare, rigirare. È una biscia, è longo un trono. No, questo miglio invece è un po' corto, anche perché adesso gli ho fatto fare un giro dentro la ferrite e quindi ho perso una quindicina di centimetri, li ho persi. Ah, capito. La ferrite serve per molte cose, tipo gli rumori, eccetera. Mi ha tolto quel rientro di radiofrequenza, me l'ha eliminato parecchio, certo non posso aumentare molto di amplificazione, però va bene così, dai, si può usare almeno. E invece dimmi una cosa, con lo Smith lì, come arriva il segnale? Tu che adesso c'è un apparecchio professionale, dai. Prova a parlare, fra. Quello arriva fino a 9,60 credo, va. 9,40 sì. 9,40 è buono? Vabbè, è già un grillo, è buono. Guarda adesso. Vedi un po'? Adesso sono con 4 watt. 1, 2, 3, prova. Già. Prova, fra, che non stavo guardando, l'ho distratto al telefono. Così è liscio. I picchi li vedo positivi. Hola. Sì, sono positivi, da 9,20 a 9,30. Quindi perdo 10 dB, dai, da 9,40 scendo a 9,30, modulati sempre. Fai l'altro passaggio, che adesso mi ho messo gli occhiali. Così è liscio. E metti attaccato. 1, 2, 3, prova. Sì, a 9,40 con picchi a 9,50. Sicuramente noi abbiamo un bel canale, perché anche tu arrivi forte. Vabbè, ma è anche il fatto che le antenne magari si vedono, capito? Perché la mia è sopra, è sul tetto, quindi magari diciamo vede la tua, capito? Da sopra. Sì, sia tu che anche Luca Del Monte arriva fortissimo, anche lui. Lui è più vicino di te. Siamo in posizione diversa, lui è più in alto, però, capito? Ma non lo so, non credo, più in alto di te non credo. Io fra sono in alto, però poi si forma un fosso dove abito io, capito? C'è una discesa e va all'interno di questa discesa, quindi rimaniamo un po' infossati. Ma c'è un palazzone alto, più come si chiama? Locale che ascensore. Hai visto che anche in Spagna, ragazzi, è venuto questo maltempo, tutte le sedie, gli ombrelloni volando, ogni aggasino. No, ho visto. Sei stato questi giorni, oggi? L'ho visto adesso su internet, lo stavo guardando. Una cosa allucinante, le sedie dei bar, gli ombrelloni, tutti volando, tutta la gente scappando e gridando, ohia, è un casino qua, dove stiamo andando a finire? Un anno, una decina di anni fa, stavo rientrando da Nulvi, entriamo a Senduri, poi i cassonetti viaggiavano tipo farfalle, da una parte all'altra, sbattevano dappertutto sulle macchine, un uragano allucinante, e poi infatti abbiamo scoperto che è partito dal Ghero, ha preso tutta la striscia qua e ha fatto danno anche agli punti, mi ricordo, fino a Senduri e oltre anche, Castagnoli. C'era la volta che stavo andando a lavorare io, che c'era pioggia, vento, ha troncato alberi, cazzo, un albero me l'ha buttato davanti alla macchina, ho fatto il tempo a sterzare e mi ha buttato fuori tutte e due le pattane, ma almeno io me la sono scampata. Poi un ubifragio da socio di Bidriati, dalle curve, dalle campane usciva l'acqua a fiuti, arrivava sino al cofano. Guarda, non ricordo, ripeto, io a occhio direi a mente una decina di anni fa almeno minimo. Una brutta, era passato anche alle punte, aveva sfiorato i punti, un bel di alberi radicati, un pino mi ricordo lì vicino a Mamuntana era staccato in quattro, quei pini marittimi, mira. Sì, lo so perché io mi sono trovato in mezzo quando stavo andando a lavoro, ci ho perso le pattane, non mi potevo fermare nemmeno per prendere le pattane perché c'era l'acqua che scendeva a fiuti. Io guarda, me l'ho vista brutta quel giorno, me l'ho vista brutta veramente, i cassoletti che volavano da una parte all'altra a Porto Torres, tutta la strada piena di cassoletti c'è. Sì, sarà quella lì allora, quella tromba d'aria, mamma mia, beh, è brutto, poi non siamo abituati a queste cose, a questi fenomeni tropicali, dai. E dice che è tutto causato dal surriscaldamento delle acque. E chi lo sa, è dall'inquinamento dell'uomo. Comunque io stavo seguendo questo abitante dell'Emilia Romagna, non mi ricordo di che città era, e ha detto che non è tanto il tempo che ha fatto questo disastro, quanto l'uomo, perché dice che hanno aperto le malattie, prima le hanno fatte arrivare i bacini sino al culmine, proprio perché c'era, per prevenire, diciamo, il fatto che manchi l'acqua, eccetera, eccetera, la siccità. E poi quando ha piovuto, praticamente, per non farli traboccare, hanno aperto le malattie, e quello lì che ha fatto allagare tutto, perché non ce l'ha fatta a smaltire tutto, è andata in città pure. Perché c'era l'acqua piovana e in più l'acqua della diga che hanno dovuto aprire, sicuramente hanno superato il livello di guardia. Mi ricordo tanti anni fa quando soffrivamo di siccità qua, una volta che pioveva non potevano riempire le dighe perché non la puoi riempire di colpo, no, tutta quanta, devi riempirla a gradi, devi collaudarla a gradi, capito? E quindi buttavamo anche l'acqua, mamma mia. Sì, ma dice che secondo lui è colpa dell'uomo, perché prima l'hanno fatta riempire sì dal culmine per paura della siccità, no? Poi come ha fatto l'acqua, traboccato, stava traboccando, allora per farla defluire hanno aperto le paratie, ma non ce l'ha fatta defluire tutto quanto dove doveva andare, ha superato muri, eccetera, eccetera, e ha allagato tutto. Sì, un anno anche lì vicino al Ghero, a Ungia, sicuramente avevano aperto un po' la diga, quella del Cuga, per scaricare un po' d'acqua, è arrivata questa ondata, si è portato via muri, anche perché molta gente si compra la campagna, la prima cosa che fa, subito si fa il muro, se lo chiude, senza lasciare il passaggio delle acque piovane, dai, dai. E poi arriva la piena e si porta via tutto, mi ricordo, c'era il muro con i paletti della rete ancora attaccati, mi ha portato via tutto. La forza della natura è micidiale, noi contro la natura non ci possiamo mai mettere perché non ce la facciamo, non c'è nulla che vince la natura. E l'acqua ce la fa al posto, se tu gli metti ostacoli lei si prende i suoi spazi. Prima i nostri nonni, la cosa mi ricordo, mio nonno la prima cosa è puliva i canali dell'acqua, sempre puliti, salacca la chiamava, mi sembra. Oggi invece la gente cosa fa? I canali, lui ci passa sopra col trattore e elimina tutto, poi arriva la piena e c'è la caduta. E poi piangono. E adesso i raccolti sono andati tutti a Fangualas perché si è allagato tutto. Sono andati a vedere com'era la casa questa coppia e si sono messi a piangere per come hanno visto tutta... Ci avevano un grosso pezzamento di terreno, tutto allagato, era tutto piantato, capito? Si è rovinato tutto il raccolto. Niente, si è rimesso tutti i sacrifici di una vita magari, nella casa, nella campagna... Non sono belle cose, però la verità, molta buona volontà ho visto lì in Romagna, hai visto? Subito sono stati da fare a riaprire i locali, a pulire le spiagge, la verità tanto di cappello, Sì. Sì, si sono rimboccati le maniche, come si suol dire, però c'è ancora molta acqua. In quel campo che sono andati questa coppia a vedere com'era la casa, cazzo, non si, si poteva passare solo col trattore. Ma c'è allora. Adesso non so se lì anche oggi sta piovendo. Ancora non ho finito neanche a pulire il fango, come dici tu. Poi quest'acqua che ristagna crea problemi, va a inquinare anche le falde acquifere, un macello diventa. Sì, perché poi ci sono animali morti, capito? Portano malattie, tutte queste cose qua, c'è poco da fare. E purtroppo la natura, chissà, non c'è niente da fare, bisogna prevenire le cose, solo che si dice e poi non si fa mai niente, se no non si mangia né vina se fa nella voi. Anche i tombini, anche a Sassa, dei tombini, quando è che li vedi mai puliti? Mai, io non ho mai visto pulire i tombini. No, ma infatti alle prime piogge tu li vedi, i tombini si intasano subito, a volte ce li puliamo noi. Basta tutta la moneta che c'è in giro va a finire lì nelle caritoie e poi non lavorano più, è l'acqua sale. E non conviene manco più pulire, hai visto quel signore che ha tappato quel buco che c'era perché le dava fastidio che magari poteva cadere, l'ha tappato e gli hanno messo la multa, ma dimmi tu, invece nel caso di ringraziarlo non lo facevano loro, ha fatto la segnalazione molte volte e non ci ha dato nessuno, allora ha preso lui, ci ha messo un po' di cemento, l'hanno trovato il vigile e gli hanno messo la multa. L'ho letto, è paradosso proprio, non esiste una cosa del genere, ho ragione io. I delinquenti sono fuori, i poveracci sono dentro la prigione. Cioè se uno si impegna a una certa cosa ci perde, se tu ti metti a pulire cose, sei capace di muovere una multa perché non è roba tua e quindi non ne devi toccare, capito? È come per dire una cazzata e via. In via Segni al quadrato, mi pare il martedì, mettono tutta la roba, però guai se la tocchi, se ti trovano ti multano e se tu tocchi quello che mettono ti multano, capito? Magari c'è una cosa che ti serve, roba del genere, molte volte c'erano anche baracchini buttati, me l'ha detto un amico che ne ha visto e se ne ha preso uno, portati e funziona appunto. No, una volta che la butti non... Ti posso anche incolpare che la stavi buttando via tu la roba. Sì, ma no, ma sono, mi sa che sono numerati, boh, o no, forse in Piazzale Serino non si numera la roba, perché passa il camion martedì e si carica tutto, capito? Come le punti, giovedì per esempio c'è uno spiazzo dove la gente può portare questa roba, questa moneta un po' ingombrante. No, io faccio il numero verde, l'altra volta ho detto buttarci il televisore, ho chiamato, mi hanno dato il numero da applicare.